In questo lunedì 3 marzo i titoli bonus partita da 90 miliardi, questo è il titolo sul nuovo fisco per il Sole 24 Ore, mentre la vicenda dell'Ucraina, da cui partiremo tra poco, è l'apertura per molti quotidiani. Kiev ha paura, Occidente diviso, così in apertura il Corriere della Sera, mentre per Repubblica l'urlo di Kiev è già guerra. La Stampa, isolare Putin, Occidente diviso. E anche il Secolo XIX, Putin si prende la Crimea, questo è il titolo di prima pagina, mentre a un passo dalla tragedia titola l'Unità. E il Messaggero, Crimea occupata ma Putin tratta. Solo il Giornale si concentra sulla politica italiana, Alfano, cinghiale ferito, è la vicenda del sottosegretario Antonio Gentile. Questa frase, cinghiale ferito, è, scrive il Giornale, la stessa minaccia usata per impedire l'uscita del giornale che aveva uno scoop contro il protetto di Angelino Alfano, Antonio Gentile, ed è la polemica politica del giorno, la nomina sottosegretario di Antonio Gentile, molto molto chiacchierata. Voglio però partire proprio dalla vicenda Ucraina, ci sono tanti articoli sui giornali su questo perché la situazione davvero è al limite della tragedia. In Crimea le truppe si arrendono ai russi, titola per esempio a pagina 3 il Corriere della Sera. Ci sono tantissimi inviati da tutto il mondo, anche italiani, nella zona, verrebbe di dire, di pre-guerra. Il capo della marina della Crimea passa con Mosca, racconta Francesco Battistini da Simferopoli, Ucraina. Ma è Crimea e dunque è Ucraina come territorio, ma sembra ormai controllo militare di Mosca. Tutti gli ufficiali delle guardie di frontiera finiscono agli arresti dei russi, 3 accerchiamenti e molte rese a Sudak sulle rampe missilistiche di Sebastopoli, la 36esima e la 39esima brigata d'artiglieria negli hangar che riparano i caccia su 27. La quinta armata d'Europa si squaglia come un esercito di Franceschiello, pochi marò di Putin e la regione è subito presa. Fate vedere come ci trattano, twittano ai giornalisti i cadetti all'Accademia Militare Nashikov, che promettono di tentare almeno loro una piccola resistenza. È una occupazione ottocentesca, dice il segretario americano Kerry. E in effetti le reazioni sono di questo tenore, soprattutto gli americani hanno reagito duramente a questa presa di posizione di Putin e dell'esercito russo che ha occupato di fatto la Crimea. Scrive sempre a pagina 2 il Corriere della Sera con Massimo Gaggi: non ci si comporta nel XXI secolo come se fossimo nel XIX, invadendo un altro paese sulla base di pretesti fabbricati ad arte. Quello della Russia è un incredibile atto di aggressione. Queste le parole pronunciate dal segretario di Stato americano, e in queste parole, scrive il Corriere, c'è tutta la volontà di dimostrare che anche se non reagirà militarmente, Washington userà tutto il suo peso per cercare di isolare politicamente ed economicamente Mosca dopo l'invasione della Crimea. Kerry volerà domani a Kiev in segno d'appoggio al nuovo governo, mentre Obama nella notte ha sentito i leader di Regno Unito, Germania e Polonia per tentare di concordare una linea comune. La linea potrebbe essere l'esclusione di Mosca dal G8. Questo almeno vogliono gli americani, mentre l'Europa frena, la Germania per esempio frena un po' di più, vuole e ha tentato di concordare un tavolo di lavoro sulla questione dell'Ucraina e della Russia. Domenico Quirico, che è uno degli inviati a Simferopoli in Crimea, scrive in prima pagina sulla Stampa: ho visto gli ucraini piangere per la morte del loro paese. Ieri nel centro di Simferopoli le parole scorrevano limpide, semplici, senza pietà. Sentivi l'odio che si addensava come la nebbia in una vallata. I propagandisti dei movimenti pro-russi nella piazza sotto il Parlamento ora parlano non più della Crimea, ma della parte est del paese, il nuovo capitolo, la prossima mossa. La primavera di Crimea è solo l'inizio. La natura si sveglia, la vita, le coscienze, siamo il modello per i nostri fratelli dell'est, a Kharkiv, a Cherson, a Donetsk. Vi gridiamo, state saldi, non abbiate paura, Putin ci aiuterà. queste le canzoni dei pro-russi che venivano ieri cantate a Simferopoli. C'è molto di stantio in queste adulterazioni della storia tirate a servire passioni e fazioni del momento. Tutto vi è autenticamente falso. Ecco, questo è l'inizio del reportage che trovate di Domenico Quirico a pagina 1 e poi 2 e 3 della Stampa. A questo proposito, al di là delle reazioni, c'è da dire che c'è una reazione dell'opinione pubblica molto molto tiepida in Italia su questa vicenda, e su questo Angelo Panebianco sul Corriere della Sera scrive un articolo, un editoriale che inizia in prima pagina e dal titolo "Noi tra ipocrisia e indifferenza", che a mio modo di vedere è un editoriale molto interessante su questo tema. Scrive Panebianco: l'Ucraina è solo a un passo dall'invasione russa, è la più grave crisi europea del post guerra fredda, dopo le guerre jugoslave dei primi anni 90, e promette, quale che sia il suo esito, di rimodellare in profondità gli equilibri del vecchio continente. C'è da chiedersi che cosa i nostri atteggiamenti verso questa crisi rivelino a noi europei su noi stessi. Tolto il caso dei due paesi europei più coinvolti, Germania e Polonia, ciò che ha più impressionato della rivolta popolare filo-occidentale contro il presidente Yanukovych, ora deposto, è stata, se non l'indifferenza, la relativa freddezza delle nostre opinioni pubbliche. Nessun serio movimento d'opinione che facesse sentire alta e forte la sua voce. Nessuna attività ben visibile di comitati per la libertà dell'Ucraina, niente manifesti di intellettuali di prestigio, niente manifestazioni di protesta di fronte a ambasciate ucraine o russe. Eppure le ragioni c'erano tutte: la lotta in piazza contro le leggi autoritarie di Yanukovych, le uccisioni, le sparizioni di molti antigovernativi, i cecchini del regime, eccetera. Le opinioni pubbliche europee si sono generosamente spese in passato per le cause più diverse, stavolta no, almeno finora. Se si confrontano le due vicende, si constata che gli europei seguirono con assai più partecipazione ed emozione gli eventi del 2011 di Piazza Tahrir in Egitto che quelli del 2014 di Piazza Maidan a Kiev. E qui Panebianco dà le sue spiegazioni. C'entra in parte la cresciuta difficoltà di interpretare gli eventi europei dopo la fine dell'Unione Sovietica. Ma a questa difficoltà se ne somma un'altra, a che fare con l'ipocrisia che sempre accompagna l'agire politico, riguarda il carattere selettivo e partigiano delle mobilitazioni per la libertà altrui. Prendiamo il caso dell'Italia. È troppo malizioso ipotizzare che se al governo ci fosse ancora Berlusconi, grande amico di Putin, avremmo assistito in queste settimane a una consistente mobilitazione della sinistra a sostegno dei filo occidentali ucraini. E non è forse vero che a parti invertite la destra farebbe di tutto per mobilitare il paese in difesa di una qualsivoglia buona causa, se ciò servisse a mettere in difficoltà un governo di sinistra? La verità è che quasi tutte le mobilitazioni in favore di giuste cause tra virgolette, hanno al fondo come bersaglio un nemico politico interno. Se il nemico interno non è identificabile, la giusta causa potrà essere anche riconosciuta come tale, ma nessuno si darà la pena di muovere un dito in suo favore. Questa è l'analisi molto dura tra indifferenza e ipocrisia di Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera, sul fatto che le mobilitazioni per le libertà altrui vengono un po' per interessi poi sempre interni, cioè se possono essere utilizzate dalle parti politiche per attaccare l'avversario. Comunque tutti i quotidiani hanno i loro inviati, segnalo anche lo straordinario reportage di Bernardo Valli, uno dei più grandi inviati italiani su Repubblica in prima e seconda pagina, per raccontare quello che sta succedendo in Ucraina. Prima della pubblicità vi lascio con questa notizia che ci lancia nella questione italiana, la classica notizia da tenere le mani strette sul volante, cari italiani, oppure se volete appoggiare le tazzine del caffè bollente. Corruzione nella sanità, stretta su appalti e manager delle ASL. La notizia è sul Messaggero a pagina 12 e parte da un presupposto che è questo. Nella ASL 1 di Napoli, tra il 2000 e il 2012, gran parte delle fatture sono state pagate due volte. due volte, cari italiani, a volte a voi non vi pagano la fattura, lì due volte, un furto di fatture di fatto di 32 milioni di euro per il servizio sanitario. Sono riusciti a frodare 5 milioni di euro tre rappresentanti legali di un consorzio e di una cooperativa sociale che a Milano trasportavano i malati. La scoperta della finanza è del dicembre scorso, i reati risalivano al periodo 2009-2012 quando sono state commesse irregolarità nel capitolato d'appalto. E da qui nasce l'idea di fare strette su appalti e sui manager, sempre nuove regole, in Italia, l'Italia è il paese dove si mettono nuove regole per dare una stretta a queste truffe, nuove regole, ci sono le nuove regole, c'è la burocrazia e le truffe continuano come e più di prima. Dal 2000 al 2012 all'ASL di Napoli fatture molte pagate due volte, una truffa da 32 milioni di euro. Ale, la pubblicità. Alessandro Milan, il David Letterman dell'informazione. David Letterman, addirittura, che complimento. Grazie, grazie caro ascoltatore. Ma magari, insomma, guadagnare un terzo di David Letterman. Va bene, alle 7:32 minuti, anche un quinto, anche un decimo. Allora, leggiamo quella che è la notizia politica principale per la quale si... Ci sono paginate e paginate le polemiche per la nomina dei sottosegretari, in particolare la nomina di Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, che si dichiara vittima di una macchina del fango, di contaminazioni anche con la grande stampa. Allora, tutta la vicenda è nata qualche giorno fa, quando Antonio Gentile è finito sulle prime pagine dei giornali, l'accusa di aver fatto delle pressioni sull'editore, sullo stampatore dell'Ora di Calabria, che stava per pubblicare la notizia del figlio di Gentile indagato. Sta di fatto che quel giorno, per un improvviso guasto alle rotative, l'Ora della Calabria non andò in stampa, e l'accusa del direttore dell'Ora della Calabria è stato il sottosegretario, quello che poi è diventato il sottosegretario, a fare pressioni. Ora, la vicenda ovviamente è tutta da chiarire. Sta di fatto che sui giornali crescono le tensioni su Gentile, ma il nuovo centrodestra dice no alle dimissioni. Lui si difende così: è la macchina del fango, pagina 8 del Corriere. Ci sono almeno due pagine, se non tre, per ogni quotidiano dedicate a questa notizia, la notizia politica del giorno. Anche in prima pagina di Repubblica, Alfaniani in trincea per Gentile, Renzi congela l'ipotesi di revocarlo. È accusato, scrive Alberto D'Argenio su Repubblica, dal direttore dell'Ora della Calabria di aver fatto bloccare le rotative del quotidiano per non far uscire il giornale con la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del figlio. Tra l'altro c'è un'intervista allo stesso direttore dell'Ora della Calabria, Luciano Regolo, intervistato da Salvo Palazzolo a pagina 6 di Repubblica. Tonino Gentile non risponde e continua a usare termini da faida. Così il direttore dell'Ora, Luciano Regolo, appena letto la dichiarazione di fuoco del neo sottosegretario che parla di macchina del fango contro di lui. Ho ribadito anche alla procura di Cosenza la notte tra il 18 e il 19 febbraio. Il presidente della Fincalabra Umberto De Rose, nostro stampatore, fa una telefonata inquietante al mio editore Alfredo Citrigno per convincermi a non pubblicare la notizia riguardante l'inchiesta sul figlio del senatore. L'audio della telefonata è sul nostro sito. E così diciamo racconta e inizia a raccontare quella vicenda il direttore dell'Ora di Calabria. Beh, ma certo, ci sono tutti i giornali, si schierano su questa vicenda, anche il Fatto Quotidiano mette a pagina 3, va a rispolverare un'intercettazione del 2006, quando Enza Bruno Bossio, che oggi è deputato del PD della Calabria e che quindi sostiene il governo, diceva in un'intercettazione in un pranzo di Antonio Gentile: Gentile è numafius, cioè un mafioso. Poi, racconta Marco Lillo a pagina 3 del Fatto, Bruno Bossio ha in parte sminuito in un'intervista successiva a quelle parole Qualcuno tirò fuori la telefonata, un emissario di Gentile mi chiese di precisare in suo favore, io dissi che la frase era stata decontestualizzata e che dall'intera telefonata si capiva il senso. Non volevo dire che Gentile fosse davvero un mafioso, feci questa dichiarazione principalmente perché sono contrario alle intercettazioni, ma lui per ringraziamento annunciò dopo l'intervista che mi querelava per quella frase detta anni prima. Immagini la mia rabbia. Mentre il Corriere mette, la notizia è anche addirittura in prima pagina del giornale, già il giornale aveva fatto questa, aveva messo questa notizia in prima pagina quando c'era la vicenda del giornale non uscito Calabria Ora. Ora oggi è il titolo di prima pagina, Alfano cinghiale ferito, e si dice non è che la questione è che 5 senatori calabresi sono 5 di numero e quindi numeri importanti per sostenere il governo Renzi al Senato, e dunque è dovuto scendere a compromessi Renzi accettando questa nomina sottosegretario. Sta di fatto che il Corriere della Sera fa quella che viene definita la storia di Tonino. A pagina 9, dal Bronx di Cosenza alla casa con piscina a forma di ostrica. Questo Fabrizio Caccia, pagina 9 del Corriere. In tanti ricordano ancora il suo discorso nell'aula di Palazzo Madama quando Tonino Onivuru, senatore di Cosenza, il nero dal colore dei suoi capelli, si alzò in piedi per chiedere allo Stato italiano di promuovere la candidatura di Silvio Berlusconi a premio Nobel per la pace. Il motivo? Aver avvicinato all'Occidente l'amico Putin. Dici Gentile e la gente a Cosenza ha paura, sospira Alfredo Citrigno, editore dell'Ora della Calabria. Tonino Gentile ha appena detto che con la mia famiglia non ha rapporti. Ancora Citrigno. Beh, vorrei ricordargli le 4 ville che mio padre Piero, quando ancora faceva il costruttore, edificò per lui, suo fratello Pino, sua figlia Lori e Katia, la figlia di Pino, sulla collina di Muoio Piccolo, in via Girolamo Sambiase, zona chic di Cosenza, una sorta di Vomero di Parioli. Quando vado a trovare mio padre, che ha la casa attaccata a quella del senatore, vedo dalla terrazza la grande piscina a forma di ostrica. E vabbè, qui continua insomma la storia di Antonio Gentile sul Corriere della Sera. Una famiglia molto presente in politica, il fratello Pino da almeno 35 anni sulla scena, assessore alle infrastrutture e lavori pubblici alla regione, una sorta di mister preferenze, nel 2000 ottenne da solo 20.000 voti. Un altro fratello, Raffaele, segretario generale della UIL calabrese. Un altro ancora, Claudio, siede alla Camera di Commercio, e poi figli, cugini, nipoti disseminati un po' ovunque. Questo sul Corriere. Vabbè, certo, questa vicenda è una vicenda che sta togliendo un po' di sonno, non lo so, a Matteo Renzi, che ieri, leggevo su Repubblica, ha detto questa battuta, almeno raccontava Repubblica. Renzi ai suoi dice, certo che se Alfano invece che Gentile nominava Cucureddu e Cabrini avremmo fatto una figura migliore. Sta di fatto che però qualcuno l'ha messo lì e ha accettato questa proposta. Tonino e la famiglia tutta in politica è fango su di me e insulta i giornali, così anche a pagina 7 di Repubblica. Certamente però la notizia politica principale è questa, le polemiche legate alla nomina del sottosegretario Antonio Gentile. L'altra notizia politica del giorno è questa: cari italiani, ci siamo forse, è la settimana decisiva. La 44esima per la precisione, è la 44esima settimana decisiva per la riforma elettorale che approda alla Camera da domani e che va approvata entro venerdì, così assicura Matteo Renzi. Entro venerdì, si tratta per applicare l'italicum solo alla Camera, così Tommaso Labate a pagina 10 del Corriere. Ho ancora qualche ora di tempo, ma posso farcela, possiamo farcela, e farcela vorrebbe dire approvare la legge elettorale alla Camera entro venerdì prossimo. Cari italiani, forse ci siamo. Beh, poi andrà approvata al Senato, quindi non pensate che se anche avvenisse l'approvazione entro venerdì io finirò di contare, perché una legge è legge quando è legge dello Stato, o no? O risulta in altro modo. In ogni caso, la novità sulla legge elettorale riportata da tutti i giornali è questa: l'obiettivo di Renzi è quello abbastanza clamoroso. di approvare la legge elettorale, quindi l'Italicum, solamente alla Camera. L'emendamento, poche clamorose righe, scrive il Corriere, questo emendamento per la soppressione dell'articolo 2 del testo sulla riforma elettorale, quello che contempla l'elezione del Senato. Se salta quello, l'ultima versione dell'Italicum prevederebbe che la legge elettorale entra in vigore solo per la Camera. Mentre il Senato, se si tornasse alle urne prima della riforma istituzionale che cancellerebbe il bicameralismo, avrebbe un'altra legge elettorale rispetto a quella di Montecitorio, cioè il proporzionale uscito dalla Consulta. Anche Repubblica titola così: Italicum valido solo per la Camera. Questa è l'ipotesi di intesa tra Renzi e Alfano, cioè far saltare l'articolo 2, che è quello, il famoso articolo Lauricella, proposto dal senatore del PD Lauricella, per l'appunto, che vuole mettere insieme la riforma del Senato con la legge elettorale, che è un modo per non fare mai niente, e quindi far saltare quello, far approvare solo alla Camera l'Italicum e fare invece mantenere al Senato un'altra legge elettorale, quella uscita dalla sentenza della Consulta, cioè fare leggere, se si dovesse andare a votare tra un mese e con la nuova Italicum approvata alla Camera, fare leggere Camera e Senato con due sistemi elettorali diversi. Questa sarebbe l'intesa, anche un po' complicata magari dal punto di vista degli accordi da capire. Sta di fatto che, come nel retroscena pagina 11 di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, Matteo Renzi dice: la partita del Premier è questa, ora agli italiani dobbiamo dare i fatti. Non sono giorni facili, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere, per Matteo Renzi, che sa di essere alla prova, chiamato alla prova dei fatti. Ora tutti mi attendono a questa prova e sono i fatti che dobbiamo dare agli italiani. Ce la farà? Chi lo sa? Intanto saluto Mauro Meazza. Meazza, come Meazza in San Siro, dove ieri è stata sospesa per impraticabilità di campo Milan-Juventus. Sì, non ho seguito bene, è successo qualcosa? No, appunto, è stata sospesa per impraticabilità di campo. Ti sto dando poi resto magari in ascolto quando mi spieghi dalla Gazzetta dello Sport, allora. E ti dirò così, che è stata sospesa per impraticabilità di campo, insomma. No, ti sento nervoso, non capisco il motivo. Sei così agitato, guarda. Va bene, sul Sole 24 Ore, caro Mauro. Metti di calmo, perché sono calmissimo. Sono calmissimo. Della Super Tasi, ecco, arrivano gli sconti alla Super Tasi. Eccola lì. Perché sai che adesso c'è la Tasi, ma anche una Super Tasi per i comuni, per poter fare un po' di sconti, no? Ecco, allora, ma quali sconti? Tu vai a vedere sul Sole 24 Ore di oggi, pagina 5, abbiamo passato in rassegna quali possono essere gli sconti da parte dei sindaci, quindi detrazioni, riduzioni di imposta, eccetera, eccetera. E a proposito di sconti di imposta, caro Alessandro, i bonus fiscali, c'è la delega fiscale che ci promette un fisco meraviglioso, e dentro questo fisco meraviglioso un bel riordino degli sconti che usiamo tutti. Quali sono e cosa succederà? Difficile da decifrare. Questa l'ho già sentita, intanto, però anche questa da un po' di anni, però stavolta c'è il mandato e c'è bisogno anche dei tuoi due eurini. Eccolo non lì. Vorremmo lasciarteli così, forse in possiamo tasca. Riordinare un attimo le cose. Inutilizzate, allora, guarda, certo. Sì, Cristiano Dell'Osso e Giovanni Parente fanno una bella rassegna dei tuoi sconti, ci sono 90 miliardi, dentro ci sono anche i tuoi due eurini, che evidentemente hai risparmiato. Vediamo se lasciarteli, aumentarteli o chissà, magari chiederti qualcosa, un 50 centesimi, un eurino. E sono tutte cose che scopriremo solo vivendo, come diceva il poeta. E certo. Senti, mi raccomando, quando ti telefonano per venderti le cose, contratti e vendite a distanza, leggi la guida pratica composta mirabilmente da Rossella Cadeo, perché tra qualche mese, a giugno, cambiano le tutele, quindi avremo più tutele, specialmente quando ci telefonano per proporre delle cose, dei contratti. Attenzione, perché avremo più diritti, ma adesso non ancora, quindi piano con le firme date, con le autorizzazioni date solo telefonicamente. Ma i VAFA sono contemplati nella guida? Ma perché volevi riparlare di San Siro? No, dico quando chiamano per proporre, per vendere. No, assolutamente no. Siamo tutte persone civili, ben educate, certo. E poi ci ispiriamo ai primi della classe. Hai visto? Guarda che abbiamo fatto un lavoretto da Francesca Barbieri, Chiara Bussi, hanno fatto un lavoretto, non sono andati a vedere, vabbè, ma chi ha tagliato di più il cuneo fiscale, ad esempio la Danimarca. Bene, allora, queste benedette riforme facciamole guardando ai nostri partner europei perché che hanno si fatto può, bene si e, può. E copiamo lo stesso. C'è chi può farlo. C'è qualcuno che mi scrive un hashtag Milan stai sereno. Io non capisco. Milan stai sereno. No, ma infatti stai sereno, ma penso che si riferisca ai tuoi 2 euro di sconti fiscali, infatti, quelli che ti dicevo. Che rimangono. Non immagino che vogliano parlare d'altro, di calcio lunedì mattina, no, figurati. No. Lunedì mattina l'Italia quando mai parla di calcio. Caro Mauro, io ti ringrazio e ti saluto. Che dire? No, so che domani non ci sentiamo, ma salutiamoci con domani, traffico. Domani salutiamoci con il lanciare tu? Rituale. Lo vuoi lanciare tu oggi? Mauro Meazza, vai. Ah, ma sarebbe un onore, faccio io allora. Vado io. Traffico. Alessandro Milan Ken, il guerriero dell'informazione. Evviva! Allora, in tutto questo la situazione del governo Renzi è, secondo un sondaggio su Repubblica, il sondaggio che tutti lunedì Ilvo Diamanti fa per Repubblica, viene dato con un consenso alto in questo momento. Al 56% degli italiani approvano il governo, 1 su 3 crede che arriverà al 2018. Così scrive Ilvo Diamanti: all'indomani della fiducia ottenuta alle Camere, Renzi e il suo governo procedono spediti, sostenuti da un elevato livello di consenso, ma al tempo stesso una diffusa consapevolezza circa le difficoltà e i rischi che li attendono. Oltre il 56% degli elettori, appunto, secondo l'Atlante politica di Demos, dà un giudizio positivo pari o superiore a 6 al governo. Non è poco, visto che si tratta del terzo governo negli ultimi 3 anni. Da quando Mario Monti subentrò a Berlusconi nel novembre 2011, l'arrivo di Monti allora apparve la fine di un incubo. Il suo, non a caso, resta il governo più stimato al momento dell'incarico, anche se un anno dopo la delusione travolse anche lui. Insomma, gli italiani al momento danno fiducia a Renzi, questo secondo il sondaggio di Repubblica. Voglio però ora saltare sull'Unità, perché spesso si parla di taglio alla spesa pubblica. Oggi l'Unità, con Claudia Fusani, ha un articolo molto interessante. La notizia viene messa in prima pagina, è un'esclusiva dell'Unità, perché scrive il quotidiano: possiamo anticipare una parte di quello che è la spending review, e dunque il taglio della spesa pubblica decisa al Ministero dell'Interno. Il titolo è questo: Viminale, tagli per oltre 200 posti di polizia. La notizia sicuramente farà scalpore, susciterà anche polemiche, perché, scrive l'Unità, questori e prefetti hanno il piano dei tagli sulle rispettive scrivanie dalla metà di febbraio. Si attende il loro parere, che in ogni caso non è vincolante come quello dei sindacati, per poi procedere entro l'estate, come già è stato scritto nelle circolari che portano la firma del Ministero dell'Interno Alfano e del capo di Dipartimento di Pubblica Sicurezza Pansa. L'Unità è in grado di anticipare parte della spending review che riguarda il comparto sicurezza. Si tratta di 267 presidi di polizia in tutta Italia, sud compreso, uffici soprattutto specialità come postale, ferroviaria, stradale, che verranno chiusi per un risparmio stimato di circa 600 milioni. Nessun intervento sul personale, che sarà accorpato in altre sedi, ma saranno chiusi uffici e commissariati da Agrigento ad Alessandria, passando per Aosta, da Palermo a Torino, passando per Napoli. Non si salva quasi nessuno. 101 province su 110 avranno una caserma o un posto di polizia, comunque un presidio di sicurezza in meno. Questa è la spending review del Viminale. Poi continua, ovviamente scrive l'Unità: i sindacati di polizia sono già sul piede di guerra, un conto è razionalizzare la spesa, ma il piano presentato è la conferma che si vuole solo conservare e non veramente cambiare. Sta di fatto che ci sono anche l'elenco dei presidi che verranno soppressi, per esempio il primo zona di frontiera per il Piemonte, Ligure e Val d'Aosta, a Milano il reparto intervento polizia stradale di Milano, a Trento la squadra nautica Riva del Garda, a Bologna la squadra cavallo, a Firenze anche la squadra cavallo, la squadra nautica di Genova, il reparto intervento polizia stradale di Roma, il sesto zona polizia frontiera per la Campania, Basilicata e Calabria, la squadra nautica di Cagliari, la squadra nautica di Palermo, il posto di polizia ferroviaria a Campobasso, il compartimento di polizia stradale della Basilicata a Potenza. Insomma, e poi l'elenco ancora di tutto quello che verrà soppresso, anticipato oggi dall'Unità. Mentre una notizia che riguarda gli italiani, tutti gli italiani che ricevono la bolletta, notizia che può essere positiva, Stefano Agnoli ne parla sul Corriere della Sera, pagina 3, luce, gas, la bolletta tutta in una pagina. Questo è il sogno un po' per molti italiani, la bolletta tutta in una pagina. È partita la fase di consultazione, dunque siamo al di là da venire a una conclusione pratica, al futuro remoto. Infatti scrive così l'articolo il Corriere, il futuro remoto è di là da venire, quello del contatore super intelligente per il quale si inizierà a fare una prima selezione già quest'anno, e il sistema in grado di tenere i conti di gas, luce, acqua tutti insieme, magari anche, perché no, il teleriscaldamento. Ma il futuro prossimo, che scatta dalle prossime settimane, sarà già sufficientemente rivoluzionario: la bolletta 2.0, la bolletta unica. Chissà se questo arriverà abbastanza in fretta. A che ora devo chiudere? Tra poco. E allora, voglio segnalare in conclusione, ebbene sì, ce l'ho, la Gazzetta dello Sport. Non l'hanno sospesa per impraticabilità di campo ieri. Doveva essere sospesa al primo tempo fino al 42esimo per manifesta inferiorità della Juventus nei confronti del Milan, ma si sa, come diceva Sacchi, il culo nel calcio conta, e quindi la Juve ha vinto, Juve da Oscar. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Sì, sto rosicando un po', allora che c'entra, sto rosicando un pochettino, questo è quello che vi tocca. Ma ci sono altri minuti, allora posso leggere anche altre cose sui giornali. Pensavo di essere arrivato quasi alla fine e invece no. Allora, c'è ancora spazio per raccontare, vabbè, la Gazzetta l'abbiamo messa lì, ecco, buttiamola là, che per oggi servirà, almeno per quel che mi riguarda. Massimo, non fa più deficiente, ma... scusate, togli per favore questa canzone, grazie. No, dicevo, oggi la Gazzetta almeno servirà per la gabbietta dei canarini, almeno per quel che mi riguarda. Massimo rispetto ovviamente per la Gazzetta. In ogni caso, c'è da segnalare anche questo articolo che trovate su tutti i giornali, l'ennesima tragedia culturale dell'Italia, l'ennesimo crollo a Pompei. Un crollo ieri a Pompei, danneggiati il Tempio di Venere e la necropoli di Porta Nocera. Domani un vertice urgente a Roma. Sono lì da millenni queste cose, ma c'è il vertice urgente a Roma, perché ogni volta c'è un crollo. Questa volta toccherà al nuovo ministro Franceschini ovviamente gestire questa vicenda. Tutti i giornali ne parlano. Antonio Salvati, per esempio, sulla Stampa: la cosa che accomuna i due crolli scoperti nel fine settimana a Pompei, che entrambi hanno interessato zone intensamente frequentate da turisti. Dal Tempio di Venere si sono staccate alcune pietre da un arco già puntellato da tempo. E allora la necropoli, invece, un crollo ha interessato il muro alto 1,70 m per un fronte di 3,5 m della tomba di Lucius Publicus Sineros, è uno degli spazi più amati da chi visita gli scavi. Danni dovuti alle piogge, sta di fatto che i danni ci sono stati. Va bene, siamo al momento finale oggi. L'articolo più inutile che ho scovato sui giornali è un qualcosa che mi ha messo una rabbia dentro, che sul Giornale Vincia, pagina 18, Daniela Uva, che dedica più di mezza pagina su cosa? Ecco i ristoranti stellati per buongustai. E vabbè, e fin qui che problema c'è? Ma se leggete tutto il titolo: ecco i ristoranti stellati per cani e gatti buongustai! Ci sono i ristoranti, soprattutto a Berlino, dove ci sono dei camerieri in livrea che prendono i vostri gattini, i vostri cagnolini, e li mettono lì a mangiare i prodotti bio, con gli allevamenti solo culture biologiche, coi cagnolini serviti a tavola da un'equipe di camerieri in divisa. E poi c'è il gelato per gli amici a quattro zampe, senza zucchero, o con le bevande rigeneranti non dannose per la salute. C'è gente che muore di fame, i cani e i gatti. con i buon gustai, con... Andiamo al giornale radio, dai.